La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, da Oscar Giannino qua, che vi saluta e vi ringrazia in diretta alle 16.31 primi 12 secondi in questo lunedì 13 di luglio per parlare di che cosa? Per parlare ovviamente tema obbligato e puntata fatta per raccogliere le vostre opinioni. Il tema obbligato è l'accordo sulla Grecia, reso noto stamattina dopo 17 ore di trattativa, insomma sabato e domenica tutti a trattare, mentre io vi dirò un po' di mie osservazioni critiche. Io non sono entusiasta per niente, da qualunque punto di vista si prenda, di questo accordo, ma queste sono le mie opinioni. Mentre ve le racconto, però iniziate subito a decidere se intervenire all'800240024 e a darci le vostre opinioni al 349-238-6666, perché l'idea è quella di vedere un pochino, di sondarvi, di capire da quello che avete capito, perché se lavorate poi non è che potete dedicare troppo tempo a leggere gli accordi europei fitti di particolari eccetera, ma da quello che avete capito fino a questo momento, alcune domande secche per così dire, a cominciare da Tsipras. Tsipras è un realista ad aver trattato fino alla fine, o è per così dire un traditore degli ideali che ha suscitato a mettere la firma sotto un accordo che effettivamente è lontano anni luce rispetto alle sue promesse, al no che aveva pronunciato il 30 giugno per convocare poi il referendum 5 luglio? Oppure un'altra domanda, ma credete davvero, per quello che avete capito, che questa intesa sia realizzabile? Cioè, ne spiegherò alcuni particolari, dirò perché io sono molto scettico, però voi credete davvero che questo sia il modo efficace per dare una prospettiva di sostenibilità alla Grecia, per tornare a farla crescere e contemporaneamente accontentare, sia pure in parte, vedremo con un enorme dubbio, la richiesta che Syriza aveva posto fin da quando aveva vinto l'elezione a dicembre, cioè il secondo taglio al suo debito dopo quello del 2012? E poi ancora, siete convinti che l'Italia abbia davvero esercitato un ruolo durante i 6 mesi, ma anche stanotte nella trattativa? Perché la Francia l'avete capito, l'ha esercitato davvero, cioè Hollande, il presidente Hollande, sia a ogni rottura dei greci, sia nel dare una mano ai greci per formulare la proposta dopo il referendum, sia nei negoziati di stanotte, e in quello che ha dichiarato stamattina è evidente che ha assunto un ruolo diverso da quello della maggioranza dei paesi dell'Eurogruppo, che invece si riconoscono nella posizione tedesca. Non è la Germania contro la Grecia, c'è una nettissima maggioranza di paesi dell'Eurogruppo che sono sulla posizione tedesca, cioè che hanno perso la fiducia nei confronti che la Grecia ce la possa fare, di cui la proposta di Schäuble, l'avete letta, di uscire a tempo dall'euro per poi vedere se si erano ristrutturati e rientrare, ma insomma la pensano così. E non è solo la Germania, perché ripeto, l'Olanda, la Finlandia, l'Austria, i paesi baltici, persino Malta stanotte ha mollato Tsipras e la Grecia dicendo no, è veramente troppo, e poi gli spagnoli, i portoghesi, gli irlandesi, quelli che si sono sottoposti in questi anni a cure dure, hanno tagliato la spesa e sono col segno più, perché il Portogallo cresce quest'anno dell'1,5%, la Spagna la stima è del 2,5%, l'Irlanda addirittura del 3,5%, e non capiscono queste perché adesso nei confronti della Grecia adottare un criterio diverso. Insomma, telefonateci per dire come vi sembra questa cosa, se ci credete, se credete che sia la soluzione, anche se aiuta e porta argomenti a chi in Italia oramai è una parte vastissima dell'opinione pubblica, non si riconosce più in questo euro, crede che sia meglio uscirne alla prima occasione, recuperare la sovranità monetaria, e lo stesso potrebbe avvenire per Podemos alle elezioni spagnole nel prossimo autunno, oppure no. Quindi diteci la vostra su Tsipras e sull'Italia. Io vi spiego perché sono un po' parecchio scettico, per così dire, per tante ragioni. Comincio da questa, che riguarda il testo di questo accordo nella prima condizione posta alla Grecia. È la prima volta che nei confronti di paesi ammessi alla possibilità di iniziare una trattativa su aiuti straordinari, perché ricordatevi che questa è una proposta per verificare se esistono le condizioni da mercoledì in poi per iniziare la trattativa, questo è il punto vero, ma entro mercoledì l'Euroarea ha chiesto alla Grecia in 48 ore al suo Parlamento di votare 4 cose grandi come grattacieli, che in 20 anni la Grecia non ha votato, di farlo nelle prossime 48 ore, entro mercoledì. Queste quattro cose sono: prima cosa, l'anticipo a gennaio 2016 della piena attuazione della riforma previdenziale del 2012. Sapete che la riforma previdenziale del 2012, quando ci fu il primo salvataggio del debito con il taglio per 100 miliardi di debito detenuto allora dai creditori privati, cioè dalle banche, la Grecia fu impegnata a una riforma delle pensioni che innalzava a 67 anni l'età per le pensioni di anzianità, se non che l'attuazione piena di quella riforma era spalmata in decenni, e Syriza fino al documento scritto dopo il referendum diceva che la piena attuazione non poteva essere anticipata prima del 2035, poi è passato al 2022 e adesso chiediamo entro 48 ore al Parlamento greco la piena anticipazione dell'elevamento dell'età pensionabile al 1 gennaio del 2016, quindi come con la nostra riforma Fornero. Fatto sta che i greci fino a questo momento non ne volevano sentire. Seconda cosa che gli chiediamo: la riforma integrale dell'IVA, quindi l'innalzamento generale dell'aliquota al 23% e la fine delle esenzioni per le isole e tutte le altre esenzioni, tranne un paio. E anche qui la politica greca non ne voleva sapere fino all'altro ieri. La terza cosa che gli chiediamo è ancora più rilevante, perché gli chiediamo al Parlamento greco di votare un organo automatico che in caso di ogni discostamento dai programmi di rientro della finanza pubblica, cioè le quote di avanzo primario concordato, ogni volta che si verifichi una cosa simile parte automaticamente un taglio di spesa. Questo significa per la prima volta chiedere a un Parlamento dell'Euroarea di applicare un meccanismo automatico, che significa in altre parole per un Parlamento abdicare alla sovranità di bilancio, non solo quella ovviamente monetaria, a cui si abdica partecipando alla moneta comune, ma anche quella di bilancio, cioè decidere i saldi di bilancio, quanto si fanno aumentando le tasse e quanto si fanno diminuendo la spesa. Lì sarebbe una cosa automatica e, ripeto, per il Parlamento greco altra cosa mai vista né sentita fino a questo momento. La quarta cosa, meno impegnativa ma rilevante comunque, cambiare l'equivalente dell'oro Istat, perché l'Istat greco chiediamo alla Grecia che diventi autonomo, indipendente dai partiti, è troppo politicizzato, quindi bisogna evitare che le cifre greche siano poco credibili, e questo dovrebbero farlo entro mercoledì. Allora, il mio primo dubbio, ve lo dico sinceramente, è che io sono obbligato a essere scettico, io non ci credo troppo. Io credo che chi ha scritto questo impegno sa perfettamente che è pressoché impossibile ottenerlo, perché nel frattempo Tsipras, che pure ha firmato questo impegno, sa perfettamente, come lo sanno i paesi europei, che Syriza ha perso 17 parlamentari al primo voto sabato sera, tra cui Varoufakis, che già ha attaccato Syriza, Tsipras stamattina, dicendo Tsipras è venuto meno ai suoi impegni. Comunque ha perso 17 parlamentari che non hanno votato la proposta sabato sera, ne ha persi altri 15 ieri, perché sui giornali greci si sono aggiunti altri 15 parlamentari di Syriza che hanno detto noi non votiamo l'accordo che sembra emergere ieri mattina, e ancora non era noto il testo greco, e quindi ne ha persi già 32 su 174. Nelle altre forze politiche, il PASOK, il vecchio Partito Socialista, che ha solo 13 eletti, già 5 hanno dichiarato anche loro ieri che non voterebbero un accordo di questo genere. E quindi Tsipras dovrebbe a questo punto gestire queste votazioni in 48 ore di testi che il Parlamento fino a ieri non voleva prendere in considerazione in nessun modo. Dovrebbe farlo in buona sostanza cambiando la sua maggioranza, cioè imbarcando non solo il partito centrista Topotami, che ha 17 seggi, ma accogliendo i voti come decisivi i voti dei moderati di Nea Democratia. Che questo sia possibile in 36 ore e 48 ore, io ho l'obbligo di non crederci. Magari voi ci credete e tutti gli altri euromembri ci credono. Io credo che la cosa più probabile sia che Tsipras ci provi e poi, per evitare di perdere definitivamente la faccia a casa sua, rassegni la dimissione e si vada a nuove elezioni. Nel qual caso però mercoledì, quando si riunisce l'Eurogruppo per esaminare la prima richiesta tassativa fatta alla Grecia, noi ci ritroviamo esattamente come eravamo domenica, di fronte al fatto che le banche greche a quel punto non possono riaprire, la BCE non può a quel punto confermare l'ELA, e la Grecia è di nuovo al Grexit di fatto senza procedure concordate. Io temo molto questo rischio. Un'ora fa sono uscite agenzie per le quali, tanto per complicare ulteriormente la faccenda, il presidente della Camera greca, che si chiama Zoe Konstantopoulou ed è una avvocatessa molto tosta di Syriza, che ha detto già anch'essa, presidente della Camera, l'equivalente nostra Boldrini, che non si riconosce minimamente nella possibilità di votare cose simili, ha già detto che lei non si dimetterà, lo ha fatto sapere al capo dello Stato greco, quindi siccome lei non è favorevole a concedere le procedure d'urgenza necessarie per fare questi quattro voti pesanti come grattacieli in 48 ore, la prima cosa che Tsipras dovrebbe fare, rientrato da Atene oggi pomeriggio, è chiedere e ottenere la sfiducia alla Presidente della Camera del proprio partito, cioè far votare 151 parlamentari propri o comunque 151 parlamentari anche di altri partiti dicendo cambiamo il Presidente della Camera. A me pare molto complicato tutto questo. Ci aggiungo tante altre cose, ma la mia critica di fondo è che bisognava capire, lo ripeto da marzo, che il caso greco, dopo quello irlandese, spagnolo e portoghese, in cui l'Unione Europea ha affrontato la crisi o di solvibilità o di sostenibilità bancaria di ognuno di questi paesi ogni volta con negoziati interstatali, e cioè senza capire che bisognava scrivere regole generali per il salvataggio delle banche o delle banche e delle finanze pubbliche degli euromembri, regole generali, cioè dei criteri che facciano riferimento a quali sono le condizioni in cui un paese dell'euroarea può contare su aiuti e in cambio di quali condizioni per salvare le sue banche o la sua finanza pubblica, condizioni generali valide per tutte ex ante. B, quali sono le condizioni invece nelle quali un paese può scegliere a quel punto di uscire anche a tempo fuori dall'euroarea con un cambio di oscillazione fisso però nei confronti dell'euro e a quel punto avendo condizioni meno pesanti ma anche aiuti meno rilevanti? Oppure qual è la condizione nella quale un paese dell'euroarea può scegliere anche di uscire definitivamente dall'euro con minori aiuti ancora e minore condizionalità ma restando l'Unione Europea? Ecco, questa cosa doveva essere chiara dopo tutte queste crisi come un principio generale da mettere nei trattati. Finché non faremo così, noi affronteremo ogni vicenda che, come vedete, si ripete nella storia, perché le crisi fiscali, di solvibilità, le bolle immobiliari ci sono nella storia. Se noi le adottiamo ogni volta affrontandole con negoziati interstatali, come abbiamo fatto, ogni volta noi alimentiamo odi nazionali, incomprensioni politiche, ognuno fa il gioco ovviamente che conviene per le proprie prossime elezioni e c'è poco da fare. L'euro e l'Unione Europea perdono verticalmente credibilità, poi ci si può illudere, lo fanno sia in euro da una parte sia i filo euro dall'altra, che si vincano battaglie, ma la prospettiva è che non si regge. Questo resta la mia critica di fondo, anche con l'accordo di questa notte qua, che secondo me è stato scritto con l'idea, vediamo se entro mercoledì abdicate oppure se vi ritroverete di nuovo con un Grexit di fatto e a quel punto non potrete dirci che la colpa è nostra. Io ho questo dubbio, magari spero di essere smentito, che il Parlamento greco si metta sull'attenti e che abdichi anche alla sua solennità di bilancio, ci credo poco francamente per tutto quello che abbiamo seguito, ma sono molto curioso, altre cose ve le dico più avanti, di capire come la pensate voi. Allora iniziano a esserci un po' di telefonate e cominciamo con Maurizio da Milano. Prego Maurizio, come la pensi, che idea ti sei fatto? Buongiorno Giannino. Velocissimo, immensa stima per lei, il passato lo sappiamo, ma non è mai cambiato un millimetro della stima che ho per lei. E la ringrazio. Detto questo, sono non solo assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto, per me, senza far tante dietrologie, ma credo solo applicando un po' di buon senso, è un'enorme bufala. Cioè, siccome i mercati vanno rassicurati, siccome l'euro non può scendere troppo perché sennò poi gli americani si arrabbiano e così... Siccome quelli del Fondo Monetario Internazionale hanno già fatto una figuraccia a non farsi da retta dalla Grecia, non poteva andare avanti tanto. Allora stanno prendendo un bel po' di tempo, proponendo cose impossibili, perché quello che dice lei, anche supposto che politicamente sia realizzabile in Grecia, con tutti i punti interrogativi che le ecco. Solo per scrivere quelle leggi penso che ci voglia 6 mesi. Ma ecco, cioè, non dico per approvare. Si figuri, dicono dall'Eurogruppo, siamo stati buoni per fare la riforma del codice di procedura civile, non gliel'abbiamo chiesta in 48 ore, ma gli abbiamo dato 4 giorni di più. Allora, cose di questo genere, voglio dire, io posso pensare tutto il male possibile di come è stata gestita la Grecia in questi anni, però se uno è realista dice, vabbè ragazzi, e per farvi dire non è possibile. Questa almeno è la mia opinione, però è anche quella di Maurizio. Attenzione che gli elementi di Maurizio, rassicurare i mercati, il cambio eccetera, sono elementi reali nella testa della maggioranza dei paesi dell'euroarea, e quindi io non li prendo come cose dette tanto per. È quello che sta succedendo, vedete, lo spread è sceso ai minimi termini a 122, però poi vediamo cosa succede se in queste 48 ore la Grecia non si dimentica di tutto quello che ha detto e fatto in questi mesi e in questi anni, visto che quelle riforme non ne ha voluto sentire parlare minimamente. Loredana da Roma, come la pensa Loredana? Sì, io credo che la trattativa sia finita con le dimissioni di Varoufakis. Lì c'è stato il cambio di rotta della Grecia, che non ha avuto il coraggio di mantenere una posizione, perché io credo che veramente poteva essere l'occasione per cominciare a parlare di crescita e non più soltanto di rigore. E qui si è persa un'occasione formidabile, storica, per la Grecia ma per tutta l'Europa. Io non credo che sia una vittoria quella che c'è stata per nessuno, perché abbiamo avuto un momento cruciale in cui si potevano mettere in discussione i trattati. Ma lei crede passato... quindi che Tsipras, malgrado tutte le difficoltà, a questo punto sia vincolato e vada avanti comunque? Tsipras andrà avanti comunque, andrà avanti nel cercare di mantenere questo accordo, lo farà. Secondo me tenterà di portare il suo Parlamento su questa posizione, perché ha ceduto, non ha più niente se non dimettersi, ma non per andare a nuove elezioni, perché sicuramente vincerebbero i centristi. Lei dice non a quel punto perderebbe dove... definitivamente il proprio ruolo politico, quindi non gli resta che andare avanti. Vedremo, Loredana, le prossime ore sono decisive, è molto complicato tutto questo. Come vedete stiamo mettendo la discussione in termini molto diversi dalle trasmissioni che ho sentito fino a questa mattina, dove sembra che l'euro è salvo e dall'altra parte, vabbè, povero Tsipras, si lecchi le ferite. Io effettivamente non riesco a vedere l'euro salvo o l'umiliazione dei greci come la grande svolta. Io credo che sia un accordo il cui primo capitolo, quello che vi ho riassunto, è un capitolo che in termini di greco antico è un periodo ipotetico del quarto tipo, cioè dell'irrealtà. Ma magari mi sbaglio. Allora, torniamo tra 60 secondi e poi sentiamo altre telefonate, cominciando da Walter da Venezia. La versione di Oscar. Allora, stiamo tornando a sentire le vostre opinioni sull'accordo uscito fuori stanotte con questo meccanismo che in 48 ore il Parlamento greco deve votare quattro grandi riforme e solo a quel punto poi accederebbe, può fare in richiesta su tutte le altre cose per ottenere 86 miliardi di aiuti, 35 miliardi che si aggiungono a questo di fondi di coesione europea. C'è qualcuno che mi chiede: ma ottiene la ristrutturazione del debito? Ecco, questo è un altro punto di fondo, questo è il punto centrale chiesto da Tsipras. Da stamattina Tsipras è esce fuori dicendo l'abbiamo ottenuto, ed è la stessa cosa che dice Hollande. Vi invito a leggere il testo. Nel testo la maggioranza dei paesi dell'Eurogruppo, c'è la penultima frase che dice che tagli nominali del debito pubblico greco non sono possibili. Quindi devo dire la verità, il tutto viene comunque rinviato al prossimo autunno, però come vedete il punto non è risolto. Sugli sms un po' di opinioni. Leo di Roma: non ha avuto il coraggio di uscire dall'euro. Valerio da Fermo e tanti altri si chiedono anche loro con me come faranno ad approvare il piano europeo in 48 ore. A quel punto cosa succede? Succede che sono la Grexit di fatto, esattamente come eravamo domenica. Dino dice che la scheggia impazzita era buon Varoufakis, mentre Tsipras è un venduto, altrimenti non lo avrebbero fatto eleggere. C'è chi chiede altri se la Grecia uscisse altri seguirebbero. Io non credo a breve, ma le opinioni pubbliche certo potrebbero disporre alle prossime elezioni diversamente, a cominciare anche dal nostro paese. Leo dice: l'accordo con la Grecia è tutta una sceneggiata, c'è solo da ridere, però purtroppo per non piangere. C'è chi, come Stefano da Bergamo, dice: andiamo fuori la Germania, questo mi pare complicato a dire la verità. Altri che dicono: ma perché non lasciamo la Grecia alla Russia e se la veda lei? Insomma, non è proprio così secondario anche il problema geostrategico con la NATO che perde pezzi, con il Mediterraneo in fiamme e la Turchia che fa l'occhiolino di fatto a ISIS. Allora, Walter da Venezia, per quello che hai capito, come la pensi? Buongiorno Giannina, la ringrazio di questo spazio. Beh, allora, a parte il fatto che sono perfettamente d'accordo con la sua analisi, perché comunque io non so quale Parlamento, governo a livello mondiale, in quale Stato, anche per quanto organizzato, per quanto messo bene, per quanto onesto, riesca ad approvare in 48 ore riforme di questo livello. Onestamente parlando non ci vedo. Però io quello che mi ricorda Tsipras è un po' una commedia shakespeariana, cioè tanto rumore per nulla. Cioè, voglio dire, ha fatto tutto questo putiferio, il referendum, quant'altro, insomma, ne ha tirate fuori di tutti i colori per arrivare poi ad accettare degli accordi che erano addirittura peggiori di quello che gli avevano presentato precedentemente. Questo è molto più duro di quello che lui ha rifiutato per fare il referendum, non c'è dubbio. È un assurdo, ma a parte questo, e la cosa principale ora, secondo me si è messo in un cul-de-sac e ora secondo me le cose sono combinate, non avrà molto spazio, lui non riuscirà a convincere il suo Parlamento a votare queste riforme in 48 ore, ma la domanda è un'altra secondo me. Avevamo un'occasione, se avesse tenuto il punto, avremmo avuto l'occasione probabilmente quantomeno, non dico di demolire, ma quantomeno di allentare la presa tedesca sull'Europa. Cioè, avremmo potuto riequilibrare le forze a livello europeo, perché comunque ha messo in forte discussione all'inizio la Merkel. Accettando questo accordo in questo modo, noi in futuro saremo ancora assoggettati alla Merkel? Allora Walter, io penso che queste regole diverse, di cui io faccio un esempio, ma senza voler convincere nessuno, non toccava alla Grecia sollevare a marzo il problema che bisognava mettere mano a queste regole diverse per i salvataggi, tanto dei sistemi bancari che di quelli nazionali, ma con regole comuni, non più con trattative nazionali caso per caso. Toccava a qualche altro paese dell'euro membro, perché la Grecia già aveva una trattativa sui suoi guai, non poteva aggiungerci questa richiesta. Di fatto però la famosa terza via per cambiare le regole europee non l'ha percorsa nessuno, perché l'Italia non si è mai distinta. Cioè non è che Padova qualche volta l'Eurogruppo ha detto scusate, fermiamoci, qua bisogna stabilire dei criteri generali, poi torniamo al caso greco. E non l'ha fatto l'Italia e non l'ha fatto neanche la Francia. Quindi alla fine sapete, c'è una stragrande maggioranza, tutti gli altri membri dell'Eurogruppo in realtà, tranne Malta, si riconoscono nella linea dei saldi di bilancio da preservare, e poi per il resto ogni paese deve fare produttività per i fatti propri. Questo è il punto di fondo, e io non credo che da questa vicenda si esca come dicono tutti, adesso riscriviamo le regole europee. Oh, per il momento non vedo le premesse. Paolo da Parma, come la pensa Paolo? Non è che si perde su problemi spiccioli attuali, ma pensiamoci bene, l'euro era una pagliacciata dall'inizio. Se andiamo a guardare i dati, la maggior parte degli stati europei che hanno diritto all'euro non rispettavano i parametri di Maastricht del 70%, eccetera, eccetera. Quindi non si sarebbe nemmeno dovuto fare l'euro, si doveva aspettare non so quanti secoli prima che... i vari stati fossero in condizioni di aderire. Eh già, perché Paolo si ricorda bene, no? I numeri sacri della convergenza di finanza pubblica, nella realtà un mucchio di paesi, non solo la Grecia che li violava abissalmente, ma noi altrettanto, l'euro è nato così, dicendo poi faremo la convergenza e migliorerà. Nella crisi un sistema monetario che non ha regole cooperative, che valgono per tutti, uno... due, e che non stimola la produttività, perché di fatto solo se vincono governi che ci credono alla riforma di produttività si espone alla concorrenza della pubblica amministrazione e servizi interni, da noi prevale il contrario, per esempio a casa nostra, e allora in quel caso la moneta unica propone inevitabilmente shock asimmetrici, cioè c'è chi va peggio di tutti gli altri e chi va meglio di tutti gli altri. Questo è il difetto costitutivo di questa moneta, non solo perché manca la politica, ma perché mancano i mercati comunicanti dei beni e dei servizi e così via. Roberto, dalla provincia di Vicenza, come la pensa? Buongiorno Giannino, complimenti a te per la tua trasmissione, sei sempre all'altezza, grazie. E io volevo sentire una tua opinione un po' più a ventaglio. Quello che sta succedendo con la Grecia e con l'Europa è semplicemente quello che dovrebbe succedere il sud Italia nel rispetto dell'Italia e del nord Italia. Cioè non lamentiamoci della Merkel, ci vorrebbe una Merkel in Italia dove che induce regioni come Calabria, Sicilia eccetera eccetera ad attuare gli stessi piani che la Grecia deve attuare adesso. Io vorrei anche una tua considerazione. Io ti interrompo subito, perché naturalmente susciterai un'immediata reazione dicendo che sei un razzista filoleghista. Il problema posto da Roberto è il problema generale di come si fa in un'area economica che ha produttività e costi e occupazione così diversa a regolare il meccanismo della convergenza. Cioè, che cosa si fa? Si dà campo a un meccanismo di trasferimenti a piedi lista? Ecco, l'Italia funziona così. Altri paesi non funzionano così, per esempio tutti vi dicono, fanno l'esempio gli Stati Uniti, dobbiamo fare come gli Stati Uniti, la BCE come la Fed. Gli Stati Uniti danno ai diversi stati che non hanno affatto lo stesso livello di sviluppo, lo stesso andamento nel ciclo, è vero che gli danno i sussidi sanitari, Medicare e Medicaid e i sussidi federali, quelli sui disoccupati, ma è anche vero che sulla finanza pubblica lì vale la legge del no bailout, cioè non c'è il salvataggio federale né per gli stati, né per le città, né per le contee. infatti la California è fallita più volte, la città di New York è fallita, Detroit è fallita e così via. Quella è una regola nella quale io mi riconosco di più, per esempio, il che significherebbe non risanare a piedi lista e salvare da Roma al bilancio della Sicilia, quello della Calabria, ad alcuni comuni sì e tanti altri no. Ecco, questo è un problema che non vale solo in Europa, vale anche nel nostro paese. Secondo me dovremmo adottare una regola come quella. Questa è la risposta che do a Roberto, ma sentiamo ancora Giuseppe, sempre dalla provincia di Vicenza. Giuseppe. Grazie, buonasera, complimenti per questa trasmissione, Giannino, veramente interessante, educativa, molto istruttiva. Però mi perdoni, a me viene un dubbio che mi assale da tantissimo e qual è? Tempo. È questo. Qui abbiamo ci sono state delle esultanze per questo referendum, che io ritengo che sia un referendum farsa, perché non c'è scritto da nessuna parte che abbia valenza, e parlo ovviamente delle ultime vicende successe in Grecia, certo. Parlo di mi viene da pensare che questo signorotto di nome Tsipras non abbia fatto un granché bene nel proprio paese. Ecco, molti la pensano diversamente, che ci abbia provato ma sia stato sconfitto. Comunque vedremo le prossime 48 ore, inutile dirlo, sono decisive, ma non lo so, io sono molto scettico. Vedremo se invece gli entusiasti hanno questa volta la ragione della storia della loro. Io mi permetto di dubitare. Grazie a tutti, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.